Con Costanza Quatriglio, regista del film Sembra mio figlio, in uscita in sala il 20 settembre. Costanza, ben trovata. Come ce lo presenti? Ve lo presento come un film. Andate tutti a vederlo. Prima di tutto. Che racconta la storia di un giovane uomo che vive in Europa, un giovane uomo ormai anche occidentale, scappato però dall'Afghanistan quando era bambino. La mamma l'ha lasciato scappare per sfuggire alla guerra, alle persecuzioni, a ogni tipo di violenza, e a un certo punto nella sua vita trova le notizie di sua madre e il film inizia col primo contatto telefonico con sua madre e da qui parte un'avventura che è un'avventura umana. Anche un po' thriller, diciamo, perché succede una serie di cose che non sappiamo, e poi a un certo punto scopriamo che quest'uomo non è solo un uomo scappato quando era bambino dall'Afghanistan, ma anche appartiene a un popolo perseguitato da secoli, che è il popolo Hazara, di cui nessuno sa niente, e quindi, diciamo, si spalanca, come dire, una finestra su un mondo gigantesco. Sì. Forse le nozioni mondiali che si hanno di questo popolo, l'occasione è stata quella della distruzione delle due enormi statue di Buddha. In origine era un'etnia di religione buddista. Sì, di fatto quando nel 2001, a marzo 2001, i talebani hanno fatto esplodere questi grandi Buddha al centro Sì. dell'Afghanistan, è stato appunto prima dell'11 settembre, quando il mondo si stava proprio sconvolgendo. Da questo punto di vista, le notizie non ci hanno riportato del popolo Hazara, parlavano di altro, ecco. Esatto. E quindi il film, anche questo in qualche modo restituisce una scoperta che io ho fatto nel tempo, perché quando io mi sono appassionata alla storia vera di questo ragazzino che all'inizio mi ha raccontato la storia di aver ritrovato sua madre, non sapevo che dietro ci fosse questo dramma di questo popolo. E quindi è stata proprio una scoperta. E il film in qualche modo cerca di ripercorrere nella struttura del racconto questo senso del viaggio e di scoperta che anche io ho fatto insieme quando ho conosciuto questa storia, ecco. Ecco, ci racconti un po' di questa dinamica, questa storia reale che, di cui sei venuta a conoscenza e che poi hai pensato di filmare. Assolutamente sì. A raccontarmi di questo incontro con sua madre, prima, dopo molti anni appunto, che ormai credeva perduta per sempre, è stato Mohamed Jan Azad, il giovane protagonista del film Il mondo addosso, quello che ho realizzato molti anni fa, nel 2005, un documentario sui minori migranti. All'epoca di quel documentario lui era un ragazzino, stava in casa famiglia e appunto mi diceva che non aveva più notizie di sua madre. A distanza di anni invece mi ha detto che questa notizia è arrivata. Rocambolescamente e fortunosamente la vita lo ha portato di nuovo ad avere notizie della propria madre. E quindi io poi in 3 anni ho raccolto questa storia, che è stata una storia ovviamente assolutamente privata, intima, fatta di ricongiungimenti, di disconoscimenti, di paure, di cose che fanno parte della vita. E poi a un certo punto abbiamo capito, anche insieme appunto alla persona che aveva ispirato questa vicenda, che il film poteva prendere delle corde universali e toccare il cuore di tutti, quindi non essere più la storia sua, ma partire dalla storia sua per fare un racconto che fosse un racconto assolutamente classico, nel vero senso della parola, perché i temi del nostro racconto sono temi che riguardano tutta quanta l'umanità, Sì. quasi toccando proprio gli archetipi del racconto, il viaggiatore, il ritorno a casa, il riconoscimento della madre, la lingua madre, la guerra, insomma, ci sono tutti gli elementi per un racconto epico. Sì. Nella tua ricerca, Costanza, sugli Hazara, cosa hai scoperto rispetto alla loro storia e anche alla loro condizione attuale? Ho scoperto rispetto alla condizione attuale che sono un popolo molto perseguitato da ogni, diciamo, ovviamente dai talebani, adesso dall'ISIS che rivendica gli attacchi anche i più recenti, e da gruppi terroristici di matrice sunnita anche in Pakistan. Il mio film racconta, la vicenda di questo giovane uomo che vive a Trieste e poi la storia si sposta proprio nelle zone del Pakistan, in confine con l'Afghanistan, dove succedono appunto degli attacchi. Attacchi che sono assolutamente all'ordine del giorno. Abbiamo visto che dopo il Festival di Locarno noi siamo passati da una gioia veramente infelice, infinita, perché eravamo molto felici di come era andata, accoglienza, il pubblico e tutte le cose belle che erano successe. Dopo 3 giorni sono cominciati degli attacchi contro gli Hazara nelle scuole, nelle università, e ho scoperto un'altra cosa, cioè che gli attacchi molto spesso sono proprio nei confronti dei giovani scolarizzati, perché il popolo Hazara tendenzialmente ci tiene molto alla cultura, quindi quando è possibile la scuola è in prima battuta un desiderio, ecco. E, insomma, ho scoperto queste cose che sono veramente difficili da digerire. Poi ho conosciuto tanti Hazara perché il film l'abbiamo anche girato in Iran, quindi è girato a Trieste e poi è girato in Iran. In Iran abbiamo ambientato delle scene con tutta la popolazione afghana rifugiata nei posti appunto dove queste persone vivevano, vivono, e quindi ho conosciuto tante persone. È stato proprio un viaggio enorme. Tutti questi attacchi da tutti questi fronti a cosa mirano? Alle economie, alle terre? Allora, diciamo, loro sono considerati infedeli in quanto la maggior parte degli Hazara sono sciiti, però non tutti gli Hazara sono sciiti e non tutti i sciiti sono Hazara, per cui quando ci sono attacchi, per esempio, in posti dove i giornali dicono attacchi alla minoranza sciita, molto spesso in realtà sono attacchi proprio per pulizia etnica nei confronti di questo popolo. Quindi c'è una base religiosa di C'è una fondo. base religiosa, però c'è anche qualcosa di più. Per esempio, il 23 luglio del 2016 è stato attaccato una manifestazione pacifica di questo popolo, soprattutto dei giovani, a Kabul, che protestavano contro il governo perché c'è un progetto di portare l'elettricità attraverso una serie di territori, e in questo progetto di portare l'elettricità il territorio dove vivono gli Hazara, che è di Bamiyan, al cuore dell'Afghanistan, era escluso. E quindi questi qua sono andati a manifestare. Ed è arrivato uno col carrettino dei gelati, si è fatto esplodere e ha ammazzato un sacco di persone. Ecco, quindi sai qual è la matrice? Io che ne so, non sono un'esperta di storia o di politica o di geopolitica, però ho imparato in questo tempo di frequentazione con queste persone a leggere le cose che accadono, ecco, un pochettino. Dove hai girato, Costanza? Il film è stato girato per la maggior parte a Trieste, e, come dicevo prima, e anche nelle zone in Iran dove ci sono molti rifugiati Hazara, perché storicamente la popolazione Hazara, che è una popolazione di diaspora, vive in Europa, nelle maggiori capitali europee, in Canada, in Australia, in tanti posti, e anche tantissimi chiaramente in Iran e in Pakistan. In Pakistan hanno trovato rifugio alla fine dell'Ottocento e adesso è diventato più pericoloso, mentre in Iran comunque, diciamo, ce ne sono proprio tanti tanti. Che tipo di uscita sarà? Il film esce in tutta Italia il 20 settembre, è la prima distribuzione che lascia il film, che ha prodotto il film e che ha deciso di distribuire il film per far sì che la distribuzione venga curata al meglio possibile ed evitare questi fuochi fatui che il film esce, boom, e poi viene tolto subito. Quindi stanno facendo proprio un lavoro capillare, sala per sala, città per città. Dal 20 più o meno quante sale saranno? Dal 20, forse adesso mi sento di dire, dallo schedule che mi stanno arrivando, una decina, una quindicina. Non lo so ancora esattamente perché si aggiungono di giorno in giorno. Bene, allora Costanza, un abbraccio, un in bocca al lupo. Ricordiamo il tuo film Sembra mio figlio, in uscita in sala a livello nazionale dal 20 settembre. A presto. Crepi il lupo, grazie. A presto.